Salva Danaio di Deborah Rosciani. Parte una nuova politica sulla scuola. Questa nuova politica mette lo studente al centro. Io penso che la scuola e noi come governo, in generale, tutti i ministri che abbiamo voluto e lavorato a questo decreto per giorno e notte, e questo è un risultato importantissimo ed è dedicato agli studenti italiani, perché dobbiamo dare loro un segnale che diventano protagonisti dell'azione politica. Uniamo sempre il concetto di svantaggiato a quello di meritevole, quindi noi riteniamo che sia corretto applicare il principio costituzionale, quindi meritevoli ancorché privi di mezzi, è proprio a questo che noi ci rivolgiamo. Buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani ben trovati a Salva Danaio. Per chi non l'avesse mai sentita parlare prima, naturalmente in queste ultime ore ha avuto modo di rimediare e avrà avuto modo di ascoltare su tutti i telegiornali, anche sui nostri radiogiornali, appunto in maniera ricorrente nelle ultime ore, la voce della Ministra all'Istruzione Maria Chiara Carrozza, peraltro intervistata anche questa mattina da Alessandro Milan. Avete sentito, ha spiegato Maria Chiara Carrozza lo spirito del provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri, che vuole proprio rimettere, come diceva, lo studente al centro dell'azione di governo, e noi auspichiamo anche le famiglie per tutti i costi che queste devono sostenere quando inizia l'anno scolastico. Ma andiamo per ordine, perché giovedì scorso 5 settembre è toccato agli studenti della provincia di Bolzano, ieri a quelli del Molise, oggi tutti a scuola in Piemonte, domani tocca alla provincia di Trento, all'Umbria, al Lazio, alla Toscana, e via via il quadro si completerà nei giorni successivi in tutta Italia. Gli studenti, per così dire, più fortunati sono i pugliesi, che non metteranno piede in classe prima di martedì prossimo, 17 settembre. Questo inizio di anno scolastico è stato reso particolarmente movimentato dal pacchetto di iniziative per la scuola approvato ieri con decreto legge dal Consiglio dei Ministri. I temi che sono stati maggiormente enfatizzati anche dai quotidiani in edicola stamattina: l'eliminazione del bonus maturità, le sanzioni per chi fuma sigarette elettroniche, le nuove assunzioni per gli insegnanti di sostegno, il personale amministrativo. Ma, e questi sono gli aspetti che interessa di più gli amici di Salva Danaio, ci sono anche delle misure che potrebbero, o almeno hanno questo obiettivo, alleggerire il peso che attualmente la scuola costituisce dal punto di vista del bilancio familiare. Vengono infatti previsti sgravi nei costi dei libri di testo per le famiglie, cambiano le regole sui tetti di spesa, viene attivato con 15 milioni di euro il welfare dello studente e si potranno utilizzare anche i libri di testo di precedenti edizioni. E allora, visto che appena proprio un paio di settimane fa, dopo il consueto allarme lanciato dalle associazioni dei consumatori, ci eravamo tornati ad occupare del caro scuola, oggi vediamo di capire in che modo, con questo pacchetto di iniziative varato ieri, vengono sostenute le famiglie e da quando, soprattutto, chissà se si sa, saranno operativi questi contributi. Naturalmente abbiamo richiamato al rapporto alcuni amici che ci aiutano molto spesso nell'affrontare questi argomenti. Ringrazio e saluto Daniele Grassucci, responsabile delle relazioni esterne di scuola.net, scuola con la K, è la prima cosa da ricordare. Daniele, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a te, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro, e poi questo magari ce lo racconterai, Daniele, se vorrai, infiltrato speciale ieri proprio nel test di medicina, appunto, e ci racconterai se è piombata nel corso di questo test. Mi sembra che tra l'altro i giornali lo raccontino questa mattina, la notizia dell'abolizione del bonus maturità, appunto, e che tipo di considerazione hanno fatto gli studenti candidati appunto a questa facoltà. Davide Guarneri, presidente nazionale dell'AGE, l'Associazione Italiana Genitori Onlus, buongiorno. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Tante riflessioni insieme a noi spese, non solo nell'ultima puntata, ma anche negli anni passati, sulla necessità di varare degli incentivi per le famiglie, o quantomeno degli sgravi fiscali, appunto, per l'acquisto dei libri, del corredo scolastico e quant'altro. Mi pare, Guarneri, che quello che voi chiedete da tempo non ci sia nel pacchetto varato ieri. c'è qualche che timido cosina, segnale, ecco. Per esempio il comodato esatto. L'uso dei tablet e altre cosette di cui parliamo dopo. Dico, ne parleremo sicuramente nel corso della trasmissione, e ringrazio invece una new entry nel nostro programma, Alberto Galla, presidente dell'ALI, l'Associazione Librai Italiani. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, come sempre in pole position vorrei che ci fossero gli ascoltatori a raccontarci intanto quanto è costato loro questo avvio di anno scolastico, come hanno preso così la notizia del pacchetto di sostegno varato ieri dal governo, cosa ne pensano. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Andate anche su Facebook, dove siamo quasi 4600, ci manca solamente un like sul nostro profilo, appunto, sul social network, oppure andate su Twitter, potete inviarci i vostri commenti con la modalità che preferite. È già tardi oggi, direi di fare la borsa in tempi molto rapidi. Borsa positiva su tutti i fronti. Questa mattina è arrivato un buon dato cinese relativo alla produzione industriale ad agosto, che ha segnato, sentite qua, una crescita del 10,4%, cifre inimmaginabili per quello che riguarda l'economia del vecchio continente, ma la Cina ha dato comunque la spinta all'Europa sul mercato azionario. Parigi più 1,29, Francoforte più 1,66, Londra più 0,70, il Nikkei ha chiuso con un nuovo rialzo di 1,5 punti, l'Hang Seng di Hong Kong vedo un rialzo di quasi 1 punto, Milano più 0,55%, qua naturalmente sotto i riflettori d'Italia ancora per questa minaccia di nuova crisi di governo che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Al momento ci accontentiamo anche oggi di questo rialzo, dovuto soprattutto ai titoli Pirelli più 2,38, Fondiaria più 1,94, Intesa San Paolo più 1,78, STM più 1,68%. In calo invece Fiat Industrial, che perde il 2,68%, e Monte dei Paschi anche oggi lascia sul campo l'1,67%. Da segnalare e ribadire ancora sul fronte obbligazionario il sorpasso della Spagna sull'Italia relativamente allo spread. La Spagna è riuscita a ridurlo di più nei confronti della Germania rispetto all'Italia ed è arrivata a 245 punti base, mentre l'Italia è attestata a 248. Lasciamo la borsa, risentiamo un altro brano delle dichiarazioni rilasciate ieri nella conferenza stampa del Consiglio dei Ministri da parte del ministro, appunto, Maria Chiara Carrozza, nelle presentare questo pacchetto di iniziative per la scuola, appunto, in termini complessivi di interventi ce ne sono tanti. Vorrei farvi sentire più specificatamente quello che riguarda i libri di testo. Non è necessario adottare i libri di testo. C'è l'idea del comodato d'uso per i libri di testo e per i libri digitali, e anche il fatto che si possono usare edizioni precedenti dei libri. E questo è perché effettivamente il costo, diciamo, del complessivo dei libri era uno degli argomenti che le famiglie, il forum degli studenti ci sottolineavano come pesante nell'ambito del costo dell'istruzione secondaria. Quindi abbiamo deciso di intervenire su questo tema, ma non è finita qua, perché poi affronteremo il tema successivo del libro digitale. Però l'idea delle reti di scuola che prendono i libri mi sembra un'idea molto innovativa, che non era stata pensata fino ad oggi, insomma è anche un intervento importante, dà un segnale in generale che il costo dell'istruzione, che il governo è intervenuto sul costo dell'istruzione, e soprattutto il segnale che gli studenti sono al centro della scuola. Quindi noi siamo intervenuti prevalentemente sugli studenti, e pensando a loro e al loro percorso fino anche all'accesso all'università. Vedo intanto il ministro Carrozza in diretta in questo momento su Sky TG24, è davvero la donna del giorno, il politico del giorno, Davide Guarneri. Vorrei cominciare subito con i genitori, perché, come abbiamo spiegato più volte, gli ascoltatori lo sanno molto bene, il nostro è il programma rivolto proprio alle famiglie che hanno speso non poco quest'anno per riprendere la scuola, per far riprendere la scuola ai propri figli. Allora, siccome anche sui giornali questa mattina si è fatto un po' l'esame complessivo di tutto il pacchetto varato ieri, mi chiedo anche da parte vostra qual è l'aspetto che vi ha convinto di più e quale invece è un aspetto magari poco coraggioso, laddove si poteva intervenire in maniera più incisiva, soprattutto per il sostegno finanziario alle famiglie che sostengono queste spese in questo periodo dell'anno. Ma allora, in primo luogo, l'aspetto che ci ha convinto di più è che finalmente si parli di scuola e, anziché togliere, il governo abbia iniziato ad offrire qualcosa alla scuola. Quindi questo è sicuramente un dato molto positivo da segnalare. Poi pare che il Ministro e il Governo abbiano ascoltato le nostre trasmissioni di Radio 24, quando già da lungo tempo chiedevamo per esempio un ampliamento delle possibilità di comodato d'uso. E qui il comodato d'uso è previsto esplicitamente per i tablet, ma anche dalle parole del Ministro si parla dei libri cartacei, così come avevamo chiesto una maggiore incisività nella sorveglianza sui tetti di spesa, e qui si dà una esplicita responsabilità al dirigente scolastico. Si esplicita anche che l'adozione è facoltativa, quante volte noi abbiamo segnalato che talvolta i libri sono intonsi a fine anno. Si esplicita per esempio la questione dei testi consigliati, che in realtà sono una spesa reale per le famiglie, e quindi pare che ci sia una restrizione anche su questo. Quindi c'è, noi diciamo, un avvio interessante di discussione. Certo, si fa quel che si può, anche considerate le coperte che ha disponibili in questo momento il governo per intervenire potenzialmente su tanti fronti, però insomma 400 milioni di euro piuttosto che niente. Guarneri. Certamente. Ecco, poi per esempio si ritorna a parlare di formazione di docenti, dimenticata da moltissimi anni. Si dividono borse di studio, sostegno alla lotta alla dispersione scolastica, insomma una serie di interventi che noi riteniamo assai positivi. Certo, tra l'altro perché poi da qua a partire con i decreti attuativi, già il fatto che un decreto legge venga varato in concomitanza con l'apertura della scuola significa che niente di tutto questo varrà per questo anno scolastico, e quindi ne parleremo probabilmente l'anno prossimo. Un'altra cosa che mi preoccupa un po', leggevo tra le pieghe appunto degli interventi di ieri, per quest'anno gli studenti potranno usare liberamente libri di testo nelle edizioni precedenti, purché conformi alle indicazioni nazionali. Questa postilla un pochino mi insospettisce, ma avremo modo di commentare tutto questo. Prima di andare ad Alberto Galla, volevo sentire invece Daniele Grassucci. Com'è andato il test di medicina ieri? Intanto raccontaci se l'hai superato, se sei andato lì solamente a fare un po' di confusione e a vedere appunto come veniva sostenuto il test da parte di tutti i concorrenti. Daniele. Beh, innanzitutto, per sapere i miei risultati dovrò attendere, come tutti gli altri studenti, il 27 settembre, ci sarà la graduatoria, insomma, quindi dovrò attendere un po'. In realtà, ecco, io sono andato là soprattutto per documentare e verificare se erano veritiere quelle denunce che ci arrivavano ogni anno di studenti che hanno preso parte al test, un po' da tutte le parti d'Italia, ci raccontavano che in alcune sedi, tra cui anche Roma, ecco, i controlli non erano così ferrei, quindi si poteva utilizzare il telefonino, si poteva copiare, c'erano persone che non rispettavano i tempi di consegna. Quindi ecco, io sono andato appunto per verificare questo, effettivamente sono riuscito a utilizzare il telefonino, sono riuscito a utilizzare dei foglietti. Chiaramente appunto il mio intento non era né quello di passare né quello di copiare, ma era quello di verificare un po' le criticità del sistema e soprattutto documentarle, ecco, perché poi questi studenti onesti che non copiano, ecco, si ritrovano magari scavalcati da quello che ha provato a barare, e però loro non possono fare nulla, perché poi ecco, io ero concentrato sulla documentazione del fatto, loro, lo studente normale è concentrato sul superare certo. Il test. Certo, andiamo, ti lascio concludere. Il mio personale parere è che poi copiare non serve a molto, perché a parte 5 quesiti di cultura generale in cui ti poteva salvare una ricerca rapida su Google, tutti gli altri erano quesiti in cui dovevi conoscere bene la materia. Allora, questa mattina i giornali peraltro ne riportano alcuni di questi quesiti, tutti i giornali riportano i 4-5 identici praticamente, effettivamente a questi si poteva più o meno rispondere, poi bisognava vedere quelli più specifici. Senti Daniele, allora proprio ieri mentre si svolgeva il test per l'ingresso a medicina è piombata probabilmente sulla platea dei concorrenti anche la notizia, no però in realtà non credo, perché il test si è tenuto in mattinata e le notizie le abbiamo avute nel pomeriggio, ma di fatto appunto viene abolito il bonus maturità per partecipare a questi test. Essendo un decreto legge credo che valga da subito, quindi teoricamente vale anche per gli studenti che hanno partecipato al test di ieri, perché qua già vedo qualche famiglia che ci sta scrivendo su questo. Valgono già per i test attualmente in corso, e infatti il paradosso è questo, ecco, in generale è stata accolta positivamente, perché è chiaro il bonus l'hanno preso solo l'80% degli studenti, quindi 4 su, cioè non l'hanno preso il 4 studenti su 5, perché c'era lo sbarramento all'ottantesimo percentile, quindi a conti malfatti vuol dire che erano più quelli che non l'hanno preso che quelli che invece hanno avuto accesso. Per contro mi mettono i panni di uno studente che invece aveva guadagnato il bonus, che ieri è entrato pensando deve avere in saccoccia, esatto, come si dice, un certo numero di punti, esce fuori e la legge è cambiata. Ecco, secondo me in questo senso col bonus è stato fatto un grande pasticcio in generale fin dall'inizio e non stiamo dando un'immagine di serietà. Ecco, tant'è vero che ti faccio sentire, Daniele, e poi ti lascio completare immediatamente delle famiglie pronte a fare ricorso. Antonella da Brescia, la sentiamo subito. Antonella, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Guardi, io sono allibita. Allibita perché premetto che questo ministro già a giugno ci sposta il test a questi studenti da luglio a settembre, quando comunque studenti e famiglie si erano organizzati ovviamente per corsi, lezioni private da tenersi, eccetera. Hanno studiato, mia figlia ha studiato durante la maturità, cioè nel percorso del quinto anno portava avanti anche la preparazione al test di ammissione a medicina. Poi la ciliegina sulla torta ci è arrivata ieri. Beh, io dico che qui non siamo in un paese normale, siamo al terzo mondo studentesco. Primo. Secondo, vorrei sapere che cosa ha speso la mia famiglia. Io ho la fortuna di lavorare, mio marito pure, abbiamo un'altra figlia, quindi non ci consideriamo comunque privilegiati, certo, in difficoltà economica. Ma solo se io avessi avuto un terzo figlio o se io non avessi avuto il lavoro, i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno non erano possibili. E comunque mia figlia non avrebbe potuto accedere a questo esame, che poi ho sentito stamattina chiamato addirittura un concorso, l'ammissione al test, che è una follia. È una follia. Primo, il ministro dice stamattina alla trasmissione di Radio 24 che un ragazzo bravo, cioè che esce con 100 alla maturità, non ha bisogno del bonus perché comunque è così bravo da superare il test. Non è vero. Perché? Primo, guardi, lo dovete dire, perché su questi argomenti non c'è l'informazione. Il programma di un liceo scientifico mediamente buono, alto, di un livello alto, come quello che penso ha frequentato mia figlia e tanti studenti italiani, non prepara il test. Esula da quello che si chiede al test. I ragazzi sono costretti a fare corsi costosissimi. Quanto ha speso Antonella, gliel'ha fatto fare a sua figlia? Allora, io l'ho fatto fare il corso di Alpha Test, quello più economico, 1.150 euro. Senta bene, quando il ministro ha spostato la data del test da luglio a settembre, l'Alpha Test ci ha chiesto un'integrazione di 50 euro per cambiare il corso, perché ovviamente il corso non poteva più essere fatto. Antonella, guardi, devo andare in pausa, è stata chiarissima, le chiedo, farà ricorso? Faremo ricorso sicuramente, faremo ricorso, noi come tanti altri. Perché vuole validare almeno il bonus appunto della maturità. Antonella, grazie molte, tanto in bocca al lupo appunto per la sua figlia molto in gamba, che insieme alla preparazione per l'esame di maturità portava avanti anche la preparazione appunto per affrontare il test di medicina. E qua insomma già un primo problema del pacchetto varato ieri lo abbiamo trovato. Inizia l'anno scolastico, il governo ha voluto fare un intervento urgente, importante, per dare alcune risposte rispetto ai problemi della scuola italiana, della scuola e dell'istruzione in generale, anche di tipo universitario. Il primo messaggio è questo: ci interessa ricominciare a investire sull'educazione e sull'istruzione dopo anni di tagli. Ci interessa perché la scuola, l'educazione sono il centro per il rilancio del nostro paese. E quindi l'applicazione della Costituzione sul diritto allo studio ha voluto essere non a caso l'inizio del nostro provvedimento, sia per quanto riguarda gli studenti medi, sia per quanto riguarda gli studenti universitari. Così il Premier Letta ha presentato ieri nel corso del Consiglio dei Ministri il pacchetto scuola e università, con una serie di misure che per il governo sono il segnale di un cambiamento di rotta, perché le attese sono moltissime, ha precisato Letta, da parte del mondo dell'istruzione. Abbiamo voluto dare le prime risposte, le risorse sono limitate, però 400 milioni di euro e una serie di interventi che hanno già scatenato un'onda di polemiche, come la cancellazione del bonus maturità che abbiamo affrontato nella prima parte del programma. 8 milioni di euro sono invece destinati a finanziare l'acquisto da parte di scuole secondarie o reti di scuole di libri di testo e ebook da dare in comodato d'uso agli alunni in situazioni economiche disagiate. Alberto Galla, presidente dell'ALI, l'Associazione Librai Italiani, ancora buongiorno. Le chiedo, buongiorno, appunto, come valutate questa tranche appunto di risorse garantite alle famiglie per l'acquisto dei libri, appunto data la polemica costante che c'è tutti gli anni in questo periodo appunto sull'aumento del costo dei libri di testo, oltre che al peso che questo rappresentano sulle schiene dei nostri bambini, per quello che mi riguarda, dei nostri nipoti. Che ci dice? Allora, innanzitutto così, in linea generale, anch'io sono convinto che il governo abbia fatto bene ad adottare questi provvedimenti in linea generale, come dico, perché è un segno di attenzione da parte del governo su tematiche che sono appunto di grande interesse, ed è un segno che si torni così a guardare con occhio di riguardo il mondo della scuola. Ovviamente dal punto di vista dei librai, che io rappresento, soprattutto quel gran numero di piccole librerie indipendenti che sono il tessuto del nostro territorio, che adesso sono in grande sofferenza per tutta una serie di ragioni, io posso per esempio trovarmi estremamente favorevole su questo concetto del controllo, diciamo, territoriale dei tetti di spesa con la responsabilità del dirigente scolastico, perché come sempre noi librai siamo il terminale di questa filiera. E veniamo quasi resi come colpevoli dell'eccesso di costo dei libri, ma ovviamente i prezzi dei libri vengono stabiliti dagli editori, quindi noi in qualche modo siamo incolpevoli da questo punto di vista, però ovviamente li viviamo, quindi va benissimo questo concetto di un controllo maggiore e anche su questo fatto della possibilità di recuperare i testi degli anni precedenti. Ma lei lo avverte anche nella sua attività quotidiana, dottor Galla, appunto questo disagio da parte delle famiglie quando devono sostenere questa spesa all'inizio dell'anno scolastico soprattutto? Ovviamente è una spesa tra virgolette obbligatoria. Ecco, quello che a me dispiace e che io percepisco è che secondo me il tema dell'investimento di 8 milioni di euro sul comodato, sia per tablet o per libri di carta, in questo momento non è un problema la differenziazione, a me però crea un problema che vorrei sottoporre all'attenzione, e cioè che non viene sufficientemente valorizzato il concetto che la spesa per lo studio è un investimento che le famiglie fanno, cioè non è una spesa a fondo perduto. È chiaro che ci sono famiglie che hanno, e sono purtroppo sempre di più, oggettive difficoltà a sostenere questa spesa, però quello che secondo me non passa dall'investimento del governo sul comodato è il concetto che la spesa scolastica è una spesa che non è giusta e che quindi i libri dovrebbero essere recuperati fiscalmente, con la forma magari del comodato. Proprio a questo riguardo mi permetto di ricordare che noi abbiamo sostenuto come Associazione Librai Italiani di Confcommercio da un po' di anni il concetto invece che sarebbe più opportuno, mi rendo conto il tema della coperta corta, di investire invece nella possibilità della detraibilità fiscale delle spese scolastiche, e questo è un tema che invece darebbe valore al concetto del libro come investimento, ma nello stesso tempo consentirebbe ai contribuenti, cioè alle famiglie, di avere un parziale recupero di questa spesa, e quindi in qualche modo metterebbe in circolo in maniera virtuosa il concetto che è una spesa positiva e costruttiva per il futuro. Galla, si fermi lì. Davide Guarneri, ha sentito che sponda le ha dato il presidente dell'Associazione Librai Italiani? Sì, sappiamo benissimo di questa loro proposta, così come quella anche dell'Associazione Italiana Editori, sulla stessa linea. Anche noi sosteniamo la detraibilità dei libri di testo. Dall'altra parte, una riflessione può anche essere che un conto è il libro, un conto è un libro di testo, un manuale scolastico, per cui forse tutta la cultura dovrebbe essere detraibile. In questo momento anche il comodato comunque è un buon aiuto alle famiglie, anche perché mi pare di capire che sarà finalizzato proprio agli alunni in situazioni economiche disagiate. Sì, prima di tutto su questo, e in secondo luogo è legato ai tablet e all'acquisto delle, diciamo, tutto ciò che è l'elettronica, proprio perché l'introduzione dell'agenda digitale non deve pesare solo sulle famiglie in questo paese, certo, altrimenti spetta solo a noi l'innovazione. Senta Guarneri, le chiedo invece, riallacciandoci alla polemica già scatenatasi nella prima parte del programma sull'abolizione e la cancellazione del bonus maturità, come Associazione Italiana Genitori, visto che siete genitori anche di figli potenzialmente universitari, come intendete affrontare questa battaglia, se intendete farlo? parla anche in termini di associazione? Ma evidentemente questa è una fase transitoria e forse sarebbe giusto che l'innovazione introdotta fosse diciamo in regola dall'anno seguente, perché purtroppo quest'anno a giochi aperti le regole danneggiano qualcuno e promuovono qualcun altro. Sicuramente dovremmo aprire una riflessione più seria sulla assurdità di molti test e sulla domanda se non è invece vero che la scuola secondaria di secondo grado deve preparare anche all'università e quindi perché dover ulteriormente procedere. In altri paesi ci sono esperienze come per esempio un primo anno universitario che sia invece selettivo. Però a tutti potrebbe essere data la possibilità almeno di entrare e provare, non ricorrendo un po' alla lotteria qualche volta di queste domande. Gianni, due gemelle, prima media, 600 euro di libri, non sono povero ma sono tanti soldi, ci scrive un ascoltatore, un altro che affronta un'altra tipologia di spesa che pure le famiglie devono affrontare, ma di queste parliamo sempre meno rispetto alle altre, rispetto ai libri, l'abbonamento autobus per studenti, euro 341 a testa, ho due figli, mi conviene portarli a scuola in auto. Sul tema dei libri di testo e del loro costo vuole intervenire Anna dalla provincia di Vicenza, che saluto. Anna, buongiorno, un dirigente scolastico in pensione. Sì, della scuola, buongiorno. Buongiorno. Della scuola secondaria di primo grado. Sì. Volevo riprendere quanto detto, due questioni. Una, quanto sollevata dal presidente Galla dei librai, che diceva che in fondo il libraio è l'ultima, diciamo l'ultima spiaggia, prima c'è tutto il lavoro dei dirigenti scolastici, ed è vero, i dirigenti scolastici hanno un ruolo importante per creare delle occasioni di risparmio, no? Quindi per esempio il lavoro importantissimo è quello di riuscire a fare delle adozioni alternative su alcune materie come la musica, l'educazione musicale, l'educazione tecnica, l'educazione fisica, ci sono scuole che ancora fanno acquistare testi su queste materie. Noi da anni, quando i famosi testi che rimangono intonsi alla fine dell'anno scolastico, come certo, dice il presidente allora dell'associazione. Noi facevamo appunto, indicavamo ai genitori di non fare l'acquisto del libro di testo, ma di dare un piccolo bonus alla scuola, che era anche un quinto di quello che avrebbero speso per il libro di testo, per potenziare i laboratori. E così la scuola ha avuto un laboratorio musicale di tutto rispetto, un laboratorio scientifico, un laboratorio di educazione tecnica. Quindi c'è anche, diciamo, nella vecchia legge, no? C'era la possibilità di operare dei risparmi. Ma sì, come per esempio anche attualmente, Anna, lei lo sa, anche molte scuole utilizzano il book in progress, sono gli stessi insegnanti che addirittura si mettono lì a scrivere il libro di testo. Anche noi un anno l'abbiamo fatto per una materia, per una materia letteraria. Però poi insomma ci sono varie possibilità. Poi la seconda, e quindi diciamo è vero che c'è questo ruolo importante del dirigente che si allea con i genitori e con gli insegnanti più disponibili per creare delle occasioni di risparmio e di reinvestimento, perché sono d'accordissimo che la spesa di una famiglia per la scuola è un investimento, però deve essere una spesa efficiente che porta certo dei risultati. Anna, grazie per la sua testimonianza. Adesso ci fermiamo, andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, poi ritorno da Daniele Grassucci perché gli voglio chiedere un commento invece sul cosiddetto welfare dello studente che questo governo ha in mente, per il quale stanzia 15 milioni di euro per favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi e il pieno successo formativo degli studenti delle medie e delle superiori, che naturalmente in particolar modo sono in condizione di difficoltà economica. E rispolveriamo ogni volta che così vi proponiamo questo tema a Chuck Berry, proprio sul tema della scuola con la sua canzone. Allora, tanti commenti da parte di molti ascoltatori sul tema appunto del costo dei libri scolastici e ritornano su un tema che noi preferiremo non affrontare in questo programma, perché lo diamo per scontato che i genitori adottino dei comportamenti di buonsenso con i propri figli, c'è da dire, e sostengono alcuni ascoltatori che se alcuni genitori non comprano l'iPhone ai figli che vanno alle medie riescono a comprare i libri. E poi quale altro ascoltatore scriveva sempre un commento di questo tenore: 300 euro di libri, ok, sono tanti, ma le stesse famiglie che piangono non si fanno problemi a spendere la stessa cifra, lo garantisco, per un weekend al mare o in montagna. Detto questo, noi ci occupiamo invece delle famiglie che farebbero molto volentieri questa spesa se fossero nelle condizioni appunto economiche di farle, chiaramente guarderebbero con grande piacere al tema appunto della detrazione fiscale su queste spese. Ci arriveremo, non lo so, nel provvedimento di ieri nulla di tutto questo c'è dell'altro, e c'è per esempio anche il welfare dello studente. Daniele Grassucci, riesci a spiegarci in pochi termini appunto che cosa prevede questa parte di questo decreto varato ieri? Sì, sono previsti da qui al 2015 uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per il diritto di studio agli studenti universitari, però ad esempio dobbiamo considerare che nel 2014 ne arriveranno, come ci porta l'agenzia ANSA, solamente 15 milioni, come pure ci saranno 15 milioni per l'agevolazione, come si diceva prima, all'acquisto di servizi di trasporti e ristorazione per gli studenti pendolari, e questo sarà sia per gli studenti delle scuole superiori che per quelli dell'università, e altrettanto 6 milioni invece sono previsti tutti quelli che sono iscritti alla formazione, ai corsi di alta formazione musicale, coreutica, artistica, quindi quelli che erano una volta l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio e via dicendo. Però ecco, c'è una cosa da notare su questa erogazione, che da questo sono esclusi gli studenti ad esempio delle scuole paritarie o anche degli ITS, che sono quei percorsi di formazione alternativi all'università, ma che stanno dando buoni frutti un po' in tutta Italia, perché sono delle fondazioni a metà tra pubblico e privato che formano dei ragazzi che dopo 2 anni vanno dritti a lavorare in azienda, perché la formazione è fatta proprio in sinergia con le aziende del territorio. E poi sempre sul discorso dell'erogazione dei fondi, a mio avviso il problema sul merito, sul diritto allo studio, è di fondo e riguarda i controlli sulla fiscalità, nel senso che oggi è facile che uno studente abbia diritto ad una borsa di studio perché magari i suoi genitori non hanno svolto una dichiarazione dei redditi corretta, oppure per motivi di comodo ha trasferito la sua residenza a casa di una nonna magari pensionata, e quindi magari si vedono persone con un elevato tenore di vita mostrato, percepito, prendere una borsa di studio, e magari il figlio classico dei due dipendenti statali, comunque dei due dipendenti che quindi devono dichiarare tutto fino all'ultimo centesimo, magari non accede. Allora hai fatto bene a segnalarlo, Daniele, perché diciamo in tempi recenti abbiamo visto anche situazioni paradossali di separazioni fittizie in nuclei familiari pur di avere appunto le agevolazioni fiscali di cui questi nuclei familiari necessitano. Comunque insomma tante perplessità, io però vorrei sentire ancora qualche altro ascoltatore per poi andare purtroppo verso la conclusione, ma siccome questi provvedimenti varati ieri avevano bisogno a loro volta di provvedimenti attuativi, li seguiremo passo passo e torneremo naturalmente a rendervi a mettervi al corrente appunto delle novità che arriveranno. Marco da Bergamo, un tema pure molto importante, toccato anche nell'altra trasmissione proprio sul finale, il tema delle mense. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Niente, il mio caso specifico è che dall'anno scorso a quest'anno il mio bambino, che va in quarta elementare, che è residente al di fuori del circondario scolastico della sua scuola, non danno più i buoni in base al reddito, ma basta, siccome il bambino è residente al di fuori, prezzo pieno. Cioè sono passati da 3 euro e 20 dell'anno scorso a 5 euro e 70 di quest'anno. Mamma mia, neanche le mangiano 5 euro di cibo i bambini di quell'età. No, dico, fra un po' vado a prenderlo io, lo porto al ristorante, mi costa di meno. Marco, ha ragione. Va bene perché vabbè, poi anche sempre in base al reddito, fortunatamente siamo in una soglia medio-alta, però dico, mettiamo questa deducibilità per ogni cosa, cioè dalla mensa ai libri, al materiale didattico, all'abbigliamento. Io sarei il primo utente a chiedere uno scontrino fiscale dal momento in cui riuscissi a recuperare anche solo il 5% della mia dichiarazione. Non pretendo il 19, il 20, il 25. Marco, poi guardi, da quello che capisco, lei ecco, ci dà questo suggerimento e può ancora permettersi, credo, di arrivare a pagare 5 euro al giorno. Pensi un po' alle famiglie che neanche 3 euro possono permettersi, neanche meno, tanto che, come abbiamo rilevato nella trasmissione fatta un paio di settimane fa, sta continuando a lievitare la quota delle famiglie che non può più permettersi di mandare i bambini a mangiare appunto in mensa. Sono morosi 12.000 casi di morosità relativi alle mense scolastiche per il solo anno 2010-2011 a Milano, e questo appunto è quello che succede qua, figuriamoci in tutta Italia. L'ultima riflessione da Giordano da Milano, che ritorna sul test d'ingresso a medicina. Giordano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, io sono studente di medicina, sono entrato con il test di due anni fa e volevo rispondere alla signora che è abbastanza arrabbiata, ha chiamato riguardo al test del figlio. Io volevo, in particolare non mi trovo d'accordo sulla sua posizione riguardo il programma della scuola e il programma di esame. Se invito questa signora a fare un confronto tra il programma del decreto ministeriale del test di medicina e il programma del ministeriale dei licei scientifici, vedrà che c'è una identità tra gli argomenti fisica, chimica e matematica, sono programmi praticamente identici. Poi che siano affrontati diversamente in scuole diverse, questo senz'altro, però i programmi sono quelli. Quindi tu, Giordano, se non ho capito male, non hai dovuto fare nessun corso integrativo praticamente prima di fare il test, quando l'hai fatto lo scorso anno? Io so dell'esistenza di questi corsi integrativi che costano anche tanto, sui 5.000 euro, però io non ho fatto nessun test e so che quasi tutte le persone, che i miei compagni di università assolutamente non hanno fatto alcun test, sono entrati chi piazzandosi meglio, chi meno bene. Certo, però Giordano, forse la figlia dell'ascoltatrice che ci ha chiamato all'inizio, magari volendo studiare in concomitanza appunto con la preparazione dell'esame di maturità, magari ha voluto così avere un po' di ordine mentale, fare due cose in maniera separata, quindi ha voluto prepararsi specificatamente. Detto questo, poi ogni famiglia fa la scelta che ritiene più opportuna, e però insomma quel costo era abbastanza elevato, quello che ha sostenuto, perché questa ragazza si è voluta preparare al meglio e di fatto appunto mentre si preparava le carte gli sono cambiate in tavola. Davide Guarneri, vorrei concludere con lei questa trasmissione, perché il punto di vista dei genitori e delle famiglie è sempre quello che ci interessa più di tutti. Detto tutto quello che è stato prodotto ieri dal Consiglio dei Ministri, mi pare che qua il tema di un fisco più leggero è ormai la nuova priorità da sollevare. Sì, soprattutto il tema è comprendere che qualche investimento e qualche spesa nell'istruzione, nell'educazione, comportano poi negli anni seguenti uno sviluppo del paese, una crescita anche del famoso PIL. Quindi noi davvero chiediamo aiuto come famiglie. Si sono citati i trasporti, si sono citate le mense. Vedo nel comunicato che ci sono 15 milioni stanziati anche per questo, per i capaci e meritevoli, è un segno, e quindi va bene la direzione, bisognerà lavorare certamente ancora di più. Davvero capire che la scuola non è una spesa del paese, o meno è una spesa immediata, ma è un investimento. Tra l'altro non abbiamo affrontato neanche tutto l'ambito delle assunzioni del personale docente. Magari Daniele Grassucci, vuoi metterci tu una chiosa finale su questo tema? È stato un intervento importante anche in questo senso quello varato ieri? Sì, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, ecco, da un po' di tempo ci sono segnalazioni di carenze da questo punto di vista, e noi sappiamo che poi per le famiglie questo invece è uno dei problemi più sentiti, perché chi ha un figlio con disabilità, ecco, poi si aspetta dal sistema scolastico che questo venga seguito, aiutato a progredire, non lasciato a se stesso. Molto bene, allora io vi ringrazio per essere stati con noi. Galla, siccome ho una quarantina di secondi di tempo prima dei saluti finali, posso dare naturalmente anche la parola a lei sul tema dei libri, appunto, così almeno per par condicio. Una cosa che dovevo dire prima, che è quella di questo non obbligo più delle adozioni, che secondo me vede la possibilità per i librai di esaltare la propria professionalità nella scelta dei cosiddetti testi alternativi. Ecco. Fare veramente il nostro lavoro, che è quello di consigliare le persone, e d'accordo, come diceva la dirigente che è intervenuta prima, con le scuole e con i comitati dei genitori. Ci piace anche questo canale che si può aprire oltre il libro di testo. Ci piace questa posizione costruttiva. Grazie ad Alberto Galla, presidente dell'Associazione Librai Italiani, e Davide Guarneri, presidente uscente peraltro dell'Associazione Nazionale Italiana Genitori Onlus, Daniele Grassucci di scuola.net, scuola con la K. Grazie a Marco Lombardo per l'aiuto in redazione, Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica. Miracolosamente oggi ho ringraziato tutti. Ci sentiamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata.